estrellas a través de Israel, futuro de las naciones. 27 años de competición. En mucho o poco tiempo. Y de alguna manera es mucho tiempo para mantener una obsesión. Porque yo creo que una parte de la obsesión. Thank you. Pero no, hay cosas que no quiero repetir. Thank you. presente la preghiera dello Padre e il suo silenzio con cui confonde sì, è una trasmissione sentita come molte persone della struttura di frase comunica e si chiede molto bene anche in modo che non può migliorare per la grafica dell'epoca violenta e sulla placca elettronica di prima televisione che si può dare la vita però ora la volenta intera e con la placca di cronica e pensi di violenza e di fronte loro Thank you.